Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. I creditori avrebbero rifiutato una parte del piano greco giù i mercati. Questa sera il vertice europeo, al centro anche l'immigrazione. Renzi dice l'Italia non è il paese dei balocchi, il rimpatrio non è un tabù. Spiati dagli americani tre presidenti francesi, Chirac, Sarkozy e Hollande. Parigi riunisce il Consiglio di sicurezza e convoca l'ambasciatore statunitense. A Roma lasciano altri consiglieri comunali. Per Marino strada sempre più stretta. Domani un test importante, il voto sulla candidatura alle Olimpiadi. Incontro tra Salvini e Berlusconi per il rilancio dell'alleanza. Si riparte dalla battaglia contro le sanzioni alla Russia. Tra poco intervista al leader leghista. I Beatles, 50 anni dopo, oggi l'anniversario del concerto al Vigorelli di Milano. Beatlesiani in fibrillazione per un evento che non fu coperto mediaticamente. Restano solo riprese amatoriali. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it, il numero di sms durante la diretta, il 349-238-6666. In apertura vi ricordo anche che da lunedì e per tutta la settimana prossima saremo in onda in diretta da Expo, se siete là e volete venirci a trovare, così come altre trasmissioni di Radio 24, siamo a Cibus Italia, che è il padiglione Expo di Federalimentare dedicato all'eccellenza dell'agroindustria italiana. Il padiglione è situato a est, vicino all'ingresso Roserio, e quindi se siete ad Expo ci si vede la settimana prossima. In apertura parliamo del vertice europeo che si apre questa sera, chiamato a discutere di due grandi temi, l'immigrazione e la Grecia. Questa mattina il Presidente del Consiglio ha riferito in aula in attesa del summit. Iniziamo dunque da qua, da come l'Italia arriva a questo Consiglio. Siamo in presenza di una turbolenza finanziaria che per la prima volta dopo 4 anni non riguarda l'Italia. Marca subito la distanza Matteo Renzi quando illustra al Senato la 2 giorni del Consiglio europeo. Si parlerà di Grecia all'indomani dell'Eurogruppo e questa volta l'Italia è in una posizione del tutto diversa, sottolinea il Premier, merito delle riforme fatte e di quelle che il Parlamento sta portando avanti. Ad Atene diciamo che siamo consapevoli delle sofferenze patite e degli sforzi fatti, ma un avvertimento è d'obbligo. Che esiste una fortissima pressione di parte delle opinioni pubbliche europee, in particolar modo di alcuni paesi, per utilizzare questa finestra che si apre come l'occasione per eliminare la questione della presenza della Grecia nella zona euro. Il nodo migranti sarà affrontato venerdì. Renzi ripete di ritenere sbagliato il trattato di Dublino, ma c'è e le regole vanno rispettate. L'Italia però deve fare chiarezza. Chi ha diritto a restare nel paese deve poterlo fare. Chi ha diritto all'asilo deve averlo in una cornice europea. E il concetto di rimpatrio non può e non deve fare paura. Poi la richiesta all'Europa. Prendersi carico e cura di altre persone insieme a noi. Noi siamo un grande paese che è nelle condizioni persino di potersi permettere di fare da solo. È l'Europa che non si può permettere di fare da solo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due grandi temi, come avete sentito, la Grecia e l'immigrazione. Su Atene l'accordo sembrava vicino fino a poche ore fa, ma poi si sono diffuse, soprattutto nelle ultime ore, indiscrezioni su un possibile no dei creditori al piano e i mercati hanno girato in negativo. In questo momento il FTSE MIB cede lo 0,35%, il FTSE OCER lo 0,37%. Di tutto questo torneremo a parlare tanto in Europa 24 dopo le 14, quanto nel nostro appuntamento di borsa alle 13.30. L'altro tema, si diceva appunto, l'immigrazione. C'è un'ondata di profughi e migranti, come vi abbiamo raccontato e come torneremo a fare tra poco, che sta arrivando in Europa e in Italia. Sembra tornata normale la situazione a Calais, lato francese della Manica. Resta alta la pressione sugli altri confini. Nel frattempo facciamo il punto con Valentina Furlanetto su come ci si appresta ad affrontare questo Consiglio europeo e che cosa ne potrebbe emergere. Valentina. Sì, ci sono, Simone, buongiorno, ci sono delle anticipazioni su questo Consiglio europeo che avrà appunto questi due grandi temi, fra cui l'immigrazione. Ci sono delle anticipazioni del Guardian che vedono 3 focus molto importanti: i rimpatri, l'identificazione certa e nel caso anche la coercizione situazione dei migranti in attesa che venga deciso per loro il rimpatrio, appunto, oppure che venga accolta la domanda d'asilo. Stando alla bozza dei documenti preparati per il summit al Via Domani, anticipati appunto dal Guardian, i leader europei avrebbero deciso di creare zone di confine strutturate negli stati membri di frontiera come Malta, Italia e Grecia. Le proposte della Commissione per il summit prevedono anche di riconoscere Frontex, l'agenzia di controllo delle frontiere, il potere di procedere con i rimpatri, che sarebbero però poi responsabilità dei singoli stati. Nella bozza si legge: la Commissione ha annunciato la sua intenzione di proporre modifiche al regolamento di Frontex per rafforzare il ruolo dei rimpatri in modo da poterli avviare. Ricorderete, proprio di rimpatri si era lamentato il commissario europeo per le politiche migratorie in una lettera inviata all'inizio del mese ai ministri dell'interno. Avramopoulos aveva scritto: il sistema dei rimpatri europei non è sufficientemente veloce ed efficace, sono pronto a valutare tutte le opzioni, e si era lamentato che veniva espulso meno del 40% dei migranti. Nella bozza, secondo sempre il Guardian, si leggerebbe: per garantire che i migranti irregolari vengano effettivamente rimpatriati, si dovrebbe ricorrere alla detenzione come misura legittima e da ultima istanza, quando è necessaria per evitare che i migranti irregolari si diano alla latitanza. Si parla di 6 mesi, ma anche di 18 mesi nei casi di non cooperazione, quindi non sembra un caso che il premier Renzi oggi abbia parlato del tabù dei rimpatri. Non possiamo avere più paura del concetto di rimpatrio, ha detto, però ha parlato anche del principio di Dublino profondamente sbagliato. Delle quote nelle anticipazioni diffuse del Guardian invece non si parlerebbe proprio, staremo a vedere. Grazie Valentina Furlanetto per questo aggiornamento. Andiamo dunque sui confini, soprattutto su quelli interni, quelli tra i paesi europei. C'è chi si nasconde tra la cabina ed il rimorchio dei tir, chi invece in gruppo cerca di forzare le porte e far sparire poi le proprie tracce tra le merci. Si è aggravata la crisi a Calais in Francia, dove migliaia di persone cercano con ogni mezzo di sfuggire ai controlli ed imbarcarsi per l'Inghilterra, e dove ieri è stata una vera giornata di caos. Le autorità britanniche hanno rafforzato i controlli al porto di Dover. La barca è piena, così intanto il portavoce del governo ungherese ha risposto alla richiesta di chiarimenti della Commissione europea sulla decisione assunta, la sospensione unilaterale ed immediata degli accordi di Dublino sui rifugiati, dopo l'annuncio la scorsa settimana dell'edificazione di un muro. Altro fronte, Ventimiglia. La notte, nonostante il mare si sia ingrossato, è passata tranquillamente nel presidio alla frontiera, mentre i migranti sugli scogli ora sono diminuiti, se ne contano circa 80. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E varchiamo questo confine, andiamo in Francia per parlare di tutt'altro argomento. Sono stati pubblicati dei nuovi leaks, rivelazioni provenienti da materiale segreto del governo americano, e emerge un sistema di controllo costante dei vertici della Repubblica d'Oltralpe. La Francia non tollererà azioni che mettano a rischio la sua sicurezza. È questa la reazione dell'Eliseo alla pubblicazione delle intercettazioni dell'agenzia di spionaggio statunitense. I documenti top secret diffusi dal sito Wikileaks riguardano conversazioni avvenute nel corso di 6 anni, dal 2006 al 2012. Nel mirino gli ultimi 3 presidenti francesi, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande, ma anche ministri, ambasciatori e diplomatici. Uno dei documenti più importanti del 2012 descrive un colloquio tra il presidente Hollande e il suo allora primo ministro Ayrault sull'uscita della Grecia dall'euro. L'Eliseo, dopo aver riunito d'urgenza il Consiglio di sicurezza e convocato Jane Hartley, l'ambasciatrice degli Stati Uniti a Parigi, ha dichiarato che si tratta di azioni inaccettabili, richiamando gli accordi presi nel 2013, quando si decise che tra alleati non ci sarebbero state intercettazioni, dopo il caso analogo che coinvolse Angela Merkel. La smentita arrivata dalla Casa Bianca non convince. Non stiamo intercettando e non intercetteremo le comunicazioni del presidente Hollande, si è limitato a replicare il portavoce della NSA, senza fare però alcun accenno al passato. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è un tema questo che torneremo a toccare nel corso della trasmissione, e parleremo appunto di spionaggio tra alleati. In realtà non è questo certo il primo caso. Si dimettono altri 2 consiglieri a Roma, e veniamo alle questioni politiche. Resta calda la situazione intorno alla giunta di Ignazio Marino. come da abitudine, oggi si è presentato in bicicletta all'incontro con il ministro delle Infrastrutture del Rio sul nuovo stadio della città, mentre, incurante delle polemiche, nelle sue dichiarazioni pubbliche continua a ripetere di voler restare al suo posto e nega che ci siano contrasti con il premier Renzi. Con il passare dei giorni, però, la posizione del sindaco di Roma Ignazio Marino appare sempre più indebolita. In polemica con i tagli voluti dalla sua amministrazione, ieri si è dimesso il CDA dell'azienda che gestisce il polo culturale del Pala Expo. Poco dopo, anche 3 consiglieri comunali coinvolti in Mafia Capitale, 2 del PD e 1 della sua lista civica, si sono autosospesi dagli incarichi e dal partito. Domani intanto proprio il Consiglio Comunale Capitolino sarà chiamato a decidere sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. Difficile che si arrivi ad una larga intesa, come auspicato dalla maggioranza e dal comitato promotore. Le opposizioni restano infatti sul piede di guerra, ma dopo giorni di proteste, venerdì lasceranno Piazza del Campidoglio ai sostenitori di Marino, che per la prima volta manifesteranno a favore del sindaco. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'altro fronte politico è quello della scuola. Il governo accelera sulla riforma della scuola e, dopo averla più volte annunciata, autorizza la fiducia sul maxi emendamento che riscrive in parte il disegno di legge approvato dalla Camera. Nel testo anche le 100.000 assunzioni promesse dal governo da settembre, anche se le nuove regole come la chiamata diretta dei docenti da parte dei presidi scatteranno solo dal 2016. Domani pomeriggio dunque in Senato il ministro Boschi presenterà fiducia e maxi emendamento del governo e già in serata potrebbe esserci il voto finale. Poi la buona scuola farà un ultimo e blindatissimo passaggio alla Camera per diventare legge entro fine mese e nelle intenzioni di Renzi essere a regime per settembre. Fallisce dunque il tentativo di trovare un accordo con le opposizioni che non hanno ritirato i loro 3.000 emendamenti e che chiedevano invece di scorporare il piano delle assunzioni con un decreto dal resto della riforma. SEL e Lega minacciano di abbandonare l'aula domani al momento del voto. Fibrillazioni anche dentro il PD con la minoranza Dem all'attacco. Stefano Fassina ha già annunciato la sua uscita dal partito, ma potrebbero esserci altre sorprese. Renzi però non arretra e lancia la sua sfida. Chi non ci sta dice: domani non voti la fiducia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torniamo all'inchiesta della quale abbiamo ampiamente parlato ieri, quella sul Catania che ha portato all'arresto del presidente della squadra, Pulvirenti. È solo l'ennesima inchiesta che riguarda il mondo del calcio negli ultimi mesi. Le scommesse, il fallimento del Parma e a livello più ampio quello che è successo nella FIFA. Un 2015 che è stato già adesso, a metà anno, un annus horribilis. In Italia l'incredibile è diventato la norma. Lo ha scritto il Guardian commentando il fallimento del Parma. E in effetti c'è poco da stupirsi di fronte a un sistema calcio, quello italiano, ormai giocato quasi più nelle aule dei tribunali che sui campi. L'inchiesta di Catania sulle presunte partite comprate per evitare la retrocessione è solo l'ultimo atto di un 2015 di nuovi scandali e vecchi vizi. 4 vittorie consecutive. Alla grande. Stiamo a volano. Ormai l'ho ingoiato e cambiato il diritto. L'anno prossimo arrivo prima. È questa una delle intercettazioni della nuova inchiesta che ha portato all'arresto di 7 persone, tra cui il presidente del Catania Pulvirenti, e che inaugura un'estate caldissima su più fronti, dalle procure di Cremona a Catanzaro, passando per Napoli fino alla FIGC con il procuratore Stefano Palazzi, che ha già acquisito gli atti di Catania. E c'è il rischio concreto che tra penalizzazioni, deferimenti e processi sportivi e ordinari che si intrecciano, i prossimi campionati di Serie B, Lega Pro e Serie D possano slittare. La FIFA ha bisogno di una profonda restrutturazione. Se il calcio mondiale è stato scosso dall'inchiesta sulla FIFA e dall'addio di Blatter, il paese di Calciopoli deve fare i conti con i 50 arresti di Catanzaro per il calcio scommesse tra Lega Pro e dilettanti. Prosegue anche l'inchiesta bis di Cremona sul capitano della Lazio Mauri e sulla partita contro il Genoa. Costola della maxi indagine chiusa a febbraio con 130 persone che rischiano il rinvio a giudizio. E se il Catania, secondo i magistrati, ha truccato le partite per restare in Serie B, il Teramo, per essere promosso, avrebbe comprato quella decisiva con il Savona. Nel calcio italiano malato, dove un presidente, quello della Lega Dilettanti Felice Belloli, definisce le calciatrici 4 lesbiche, si indaga anche sul numero 1 della Lazio Lotito per un presunto tentativo di estorsione sulle società di Lega Pro. I creditori hanno insistito sulla loro richiesta di fallimento. Un calcio in crisi, nel quale il Parma dei miracoli europei si ritrova senza acquirenti e riparte dalla Serie D. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra poco torneremo a parlare di Roma e dei problemi politici per Ignazio Marino, che ha perso altri 3 consiglieri comunali nel giro di poche ore. Bisogna capire quanto regge ancora questa maggioranza in consiglio comunale. E poi torneremo ad occuparci delle intercettazioni ai danni dei presidenti francesi messe in atto dagli americani. Già qualcuno ci scrive a proposito di questo, ma intanto c'è il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. I creditori avrebbero rifiutato il piano greco, giù i mercati, questa sera vertice europeo, al centro anche l'immigrazione. Spiati dagli americani 3 presidenti francesi, Chirac, Sarkozy e Hollande. Da Parigi convoca l'ambasciatore statunitense. A Roma lasciano altri consiglieri comunali, domani test importante, il voto sulla candidatura alle Olimpiadi. I Beatles, 50 anni dopo, oggi l'anniversario del concerto al Vigorelli di Milano. E di questo torneremo a parlare più avanti, sentiremo un servizio con l'intervista anche a chi è stato gruppo spalla, per così dire, come si dice nei concerti. Nella fattispecie non ci crederete mai, ma era Peppino Di Capri. Parliamo però adesso con Fabrizio Panecaldo, la saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a lei. Capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, coordinatore della maggioranza, se non erro presidente della commissione scuola, e adesso Marino le ha chiesto anche di fare il presidente della commissione bilancio? Sì, diciamo che però mi viene un po' da sorridere, perché sono molto onorato alla proposta che mi ha fatto il sindaco, però insomma non sono nella condizione. Lo credo fisica, bene. Diciamo, di poter, lo credo. Di poter, ecco, lo credo, insomma, faccio l'accumulatore seriale di carica gratis Roma. Lo credo bene. Ho letto da qualche parte la chiamano l'uomo dei cocci, cioè l'uomo che deve, quando le cose vanno in pezzi, è l'uomo che è chiamato a rimetterli insieme. Ma in realtà, diciamo, non penso di essere così bravo. Ho una predisposizione naturale, diciamo, sono uno di quelle persone che quando vede un tronco piegato non butta giù il tronco, ma cerca di metterci un sostegno. Senta, però a me sembra che il tronco stia cadendo, e intendo la giunta Marino, perché qua c'è quella che viene definita da qualcuno un'ecatombe di consiglieri che si dimettono. Ci sono stati ieri D'Ausilio e Ferrari, anche il capo della lista civica di Marino. L'impressione che abbiamo da qua noi osservatori esterni, Panecaldo, è che non possa durare a lungo questa giunta e questo governo di Roma. Guardi, diciamo, in primo luogo, per quanto concerne le sospensioni, perché si sono sospesi dal Partito Democratico, io ringrazio questi colleghi che in realtà hanno già maturato questa convinzione da alcuni giorni dopo che erano apparsi le intercettazioni e ci hanno detto, insomma, di essere completamente strani, ma non volendo, diciamo, mettere in difficoltà il gruppo consigliare, hanno fatto questa scelta, così come l'ha fatta anche il capogruppo della lista civica. Diciamo, questo però prescinde dalla tenuta di questa maggioranza, perché quello, diciamo, è semplicemente il segno del lavoro che si sta facendo insieme al commissario Orfini, di mettere in sicurezza, ripulire il Partito Democratico. In questo caso non stiamo parlando di pulizia, ma semplicemente di precauzione, insomma, quel lavoro che è stato fatto nei circoli, quel lavoro che tutti state seguendo e che in realtà ha messo Mi scusi, Panecaldo, ma come fa a prescindere la tenuta della giunta da questa situazione politica, la tenuta della maggioranza da questa situazione politica? Mi scusi, non le chiedo di spiegarmi, perché non riesco a capire. No, cerco di spiegarlo in pochi secondi. In realtà l'autosospensione non comporterà che non parteciperanno ai lavori dell'Aula e quindi non continueranno a dare una mano a questa maggioranza. In realtà noi dobbiamo fare altre cose. Guardi, il Premier Renzi ha detto una cosa, se volete, di chi usa le frasi del buon padre di famiglia, cioè la testa del buon padre di famiglia. La onestà, che sicuramente incarna questo sindaco, è una condizione importante, essenziale, ma va abbinata alla politica del fare, della quotidianità, alla capacità amministrativa, diciamo. Vede, noi abbiamo fatto delle cose mirabili, importantissime: chiudere Maragrotta dopo tanti anni, dopo tante proroghe, portare Roma ad avere la raccolta differenziata in termini di tonnellate tra le prime città in Europa, ma poi non spazzare le strade fa sì che i cittadini ti misurino sullo spazzamento della strada, sulla pulizia della strada e non sul lavoro importante, diciamo, che riguarda le precondizioni per avere la chiusura del ciclo dei rifiuti. Se tu rimetti in piedi un'azienda come l'ATAC, ma poi non fai correre gli autobus e li fai camminare a tempi di lumaca i cittadini ti misurano su quest'ultima cosa, non ti misurano sul fatto che tu stai facendo un buon lavoro per rimettere insieme l'azienda. Insomma, io penso che quel messaggio sia stato molto chiaro e quel messaggio vada colto. Sì. Vada colto nella sua essenza. Fondamentale. Sì, detto ciò, delle cose. Sì, detto ciò, detta è chiara la necessità di cambiare le cose. Le ripeto, l'impressione è che ci sia un problema di tenuta più puramente politica a questo punto, cioè di tenuta della maggioranza e di difficoltà che tra l'altro dovrete affrontare probabilmente domani già con il voto sulla candidatura alle Olimpiadi. Ecco, colgo la sua ultima osservazione proprio per dirle che domani forse avremo invece una prova di compattezza di questa maggioranza, sicuramente del gruppo del PD. È chiaro che si naviga in questo caso, in questi momenti, in queste ore, in queste settimane un po' a vista, e quindi le complessità vanno, i nodi vanno sciolti giorno per giorno. Non è certo facile lavorare, lo potete immaginare in questa condizione. Io lo capisco, pane caldo. Quello che voglio capire è se secondo lei si arriva fino a fine legislatura oppure no. Guardi, intanto attendiamo la relazione del prefetto Gabrielli, perché è persona che stimiamo tutti. E va bene, allora mettiamo che Gabrielli non chieda dica non è necessario il commissariamento di Roma, lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Mettiamo che dica questo, dal punto di vista politico, secondo lei regge oppure no? A parer mio debbono cambiare tante cose. A parer mio deve appunto, allinearsi quel che diceva Matteo Renzi, cioè noi dobbiamo cambiare fase, cambiare veramente direzione e lavorare insieme con la città per quelle che sono le cose più semplici. Sì. Badate bene, sono le cose semplici, anche quelle sono precondizioni, perché tenere pulite le strade o tappare le buche. Non mi ha risposto, pane caldo. Se ci sono delle condizioni si può andare avanti, altrimenti penso di no. E queste condizioni le vede profilarsi all'orizzonte o no? Beh, qui sta la capacità di ognuno di noi nel mettere insieme i gocci e rincollare quel famoso vaso di cui parlavamo all'inizio. Stiamo lavorando. Grazie Fabrizio Panecaldo, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio e tante altre cose, coordinatore della maggioranza, presidente della commissione scuola. Gli è stato richiesto di fare il presidente della commissione bilancio dopo la dimissione di uno dei consiglieri e ha deciso di non accettare, anche perché gli incarichi iniziavano a diventare tantini. Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma, bentornato ai nostri microfoni e buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori sintonizzati. L'abbiamo chiamata per parlare di queste nuove rivelazioni di Wikileaks che parlano del controllo della NSA su una serie di presidenti francesi, Chirac, Sarkozy, Hollande che convoca il Consiglio di Sicurezza e convoca anche l'ambasciatore americano a Parigi. In realtà non è proprio una novità che tra alleati ci si spii, dottori. No, soprattutto non è una novità che ci siano problemi tra i francesi e gli americani, che si sono spiati a vicenda persino durante gli anni più bui, della Guerra Fredda. In particolare i francesi conducevano importanti operazioni di spionaggio economico-industriale negli Stati Uniti e non erano rari gli episodi di espulsioni incrociate degli agenti operanti dei due paesi nel territorio dell'altro. Allora, cosa c'è di nuovo in tutto questo, secondo lei? C'è qualcosa di nuovo? Ma in realtà che questa cosa venga fuori in questo momento, secondo me, è utile a chi intende accentuare i contrasti tra la Francia e gli Stati Uniti, che non sono sempre sullo stesso registro. Non sono sullo stesso registro, in particolare in relazione alla politica medio orientale. La Francia rappresenta molto all'interno del gruppo dei 5+1 che negozia con l'Iran gli interessi dell'Arabia Saudita ed ha creato più di un ostacolo ai negoziatori americani che spingevano per arrivare a un accordo più rapido con Teheran. Comunque di tutto questo e di tutte le informazioni che stanno emergendo in questo periodo in materia di spionaggio, credo che non sia questa la cosa importante. Ciò che invece è decisivo è il fatto che dalle rivelazioni di Snowden in particolare noi abbiamo appreso l'esistenza di un programma di profilazione di massa di intere nazioni che serve ai decisori politici americani da un lato ad avere il polso in tempo reale di quello che pensano interi popoli e secondariamente a chi è in grado di fare delle strategie, anche di orientare con tecniche di marketing politico molto avanzate il comportamento degli opinion leaders e anche, diciamo, dei gruppi di pressione che poi possono mettere in movimento delle grandi trasformazioni o comunque generare dei processi di carattere rivoluzionario, come abbiamo visto in Ucraina, come abbiamo visto anche nel mondo arabo. La ringrazio, grazie a Germano Dottori che ci ha anche fatto capire perché, quando si dice ormai con un luogo comune che il petrolio degli anni 2000 sono i dati, avete capito esattamente di che cosa si sta parlando, addirittura della possibilità di orientare l'intera opinione pubblica di un paese. Grazie a Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma. Debbo una risposta a William D'Ascoli che ci chiede notizie sulla sentenza della Consulta che riguarda il blocco degli adeguamenti degli stipendi ai dipendenti pubblici. Ebbene, ieri c'è stata l'udienza, ma come è successo per quella sulle pensioni, probabilmente non avremo notizie sulla sentenza e sulla decisione della Consulta in merito a questo se non nelle prossime settimane. Ieri ve ne abbiamo parlato perché appunto c'era attesa per questa sentenza che non è arrivata. Prendiamoci un attimo di leggerezza e occupiamoci di un concerto di 50 anni fa. Signore! Signori! Vi presentiamo i Beatles! Pomeriggio di 50 anni fa, il 24 giugno del 1965, quando i Beatles, i mitici quattro di Liverpool, portati in Italia da Leo Wächter, salirono sul palco allestito nel Prato al centro del velodromo Vigorelli di Milano per la loro prima ed unica tournée italiana. Due i concerti milanesi, uno al pomeriggio e uno alla sera, in entrambi suonarono per circa mezz'ora, 7.000 gli spettatori per il pomeriggio, 19.000 la sera. In scaletta 12 classici del loro repertorio dal vivo, a cominciare da Twist and Shout. Ma in Italia i Beatles erano in realtà ancora poco conosciuti. La Rai non mandò neanche una troupe perché non ne comprese l'importanza e le uniche riprese video del concerto al Vigorelli di cui disponiamo sono quelle amatoriali di alcuni spettatori e di Peppino Di Capri, il grande cantante napoletano che fu tra l'altro uno dei musicisti che aprì come supporter il concerto dei Fab Four. Furono fatte così delle riprese amatoriali. La Rai non riprese lo spettacolo, questo fu una piccola pecca perché non credeva nel loro futuro, invece sbagliarono clamorosamente. Ecco, lei seguì supporter di tutte le tappe? Sì, le ho fatte tutte e tre e poi insomma poi ho viaggiato con loro anche negli alberghi, eravamo negli stessi alberghi, solo che erano inavvicinabili. L'unico scambio simpatico che ho avuto è che non si poteva riprendere, allora io avevo una cinepresa 16 mm e mi scaraventai fra il pubblico per riprendere un po' del loro concerto e quindi è rimasto un bel ricordo per me questo filmato che conservo gelosamente a colori, tra l'altro. L'unico gruppo che fece da supporter fu invece quello dei New Dada, il cui frontman era Maurizio Arcieri, da poco scomparso. Con lui c'era Pupo, il batterista della band, che quel 24 giugno del 65 lo ricorda così. Il ricordo più incisivo che mi è rimasto in mente è la non differenza tra il disco e loro dal vivo. Dopo i primi, diciamo, 30 secondi siamo rimasti tutti a bocca aperta perché erano uguali al disco, qualcosa di veramente diverso da tutto quello che c'era nel panorama musicale di quei tempi. Un anno dopo, nel 1966, i Beatles decisero di non fare più concerti dal vivo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa e poi subito dopo parleremo con il leader leghista Matteo Salvini per farci raccontare com'è andato questo incontro ieri con Berlusconi, questo ritrovato asse con Berlusconi. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. I creditori avrebbero rifiutato il piano greco, giù i mercati. Spiati dagli americani tre presidenti francesi, Chirac, Sarkozy e Hollande. A Roma lasciano altri consiglieri comunali per Marino, strada sempre più stretta. L'incontro tra Salvini e Berlusconi per il rilancio dell'alleanza, si riparte dalla battaglia contro le sanzioni alla Russia. La borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci a parlare dell'incontro di ieri sera che c'è stato tra Matteo Salvini, il leader della Lega, e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Abbiamo in linea con noi Matteo Salvini. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, come sono andate le cose? Bene, perché abbiamo parlato di temi veri, concreti, reali, non di legge elettorale, ma di studi di settore, di IMU sui capannoni e sui terreni agricoli, e anche di Europa, e devo dire con soddisfazione che per la prima volta ho sentito Berlusconi e Forza Italia in sintonia con la Lega sulla revisione dei trattati europei, delle direttive. Quindi sulla revisione dei trattati, non sull'uscita dall'euro. Ma fra i trattati c'è quello che ci ha anche imposto una moneta unica che sta portando disoccupazione e fame non solo in Italia ma in mezza Europa, e quindi pensare a un futuro anche di sovranità monetaria diverso mi sembra cosa sensata. E ci sono state aperture da Berlusconi su questo, mi sembra di capire da quel che ci dice. Non solo da Berlusconi ma da qualunque italiano faccia due conti e si renda conto che in questa situazione non stiamo sicuramente bene. Senta una cosa, ha detto e non si è parlato di legge elettorale, in realtà i giornali poi sa, come sa, noi riportiamo cose, indiscrezioni, retroscena, dicono che in realtà se ne è parlato, avete parlato dell'Italicum, della possibilità di fare un fronte comune per rimetterci mano. No, guardi, non me ne è mai fregato niente, men che meno me ne frega qualcosa. Adesso è Renzi che ha perso un anno e mezzo in Parlamento per farsi una legge elettorale che adesso forse si è accorto che non gli serve più come pensava, però lo lascio tutto a Renzi il dibattito sulla legge elettorale. Io preferisco impegnarmi, come abbiamo fatto oggi alla Camera, sugli studi di settore, che penso sia un po' più importante. Senta una cosa, dal lato dei cosiddetti rapporti di forza, no? All'interno di un'ipotetica coalizione, Berlusconi a quanto pare vorrebbe federare un po' tutti sotto un cappello comune. Mi sembra di capire che lei non ne voglia sentir parlare, insomma, la Lega comunque va da sola e chi si vuole accodare si accodi. Senza imporre niente a nessuno, però penso che gli elettori ancora 15 giorni fa abbiano scelto il programma, la concretezza, la coerenza della Lega, quindi non pretendo di essere un genio, però su alcuni temi la scelta è stata fatta. La Lega non si scioglie in nessun soggettone, minestrone o marmellatone unico. Rispetto agli anni passati i rapporti di forza sono cambiati, detto questo la nostra porta è aperta e il programma è in costruzione, ovviamente con chi non sta tenendo la cadrega a Renzi, quindi ovviamente non per Alfano. Ci sono delle prime idee di fronte comune già dal punto di vista delle iniziative magari parlamentari? Sì, guardi, in Europa sul tema delle sanzioni contro la Russia c'è qualcuno di criminale che gioca alla guerra nel cuore dell'Europa nel 2015, quindi smontare il potenziale conflitto contro la Russia, tornare a dialogare, tornare a parlare di commercio, di pace e di esportazione è la prima cosa su cui Lega e Forza Italia si impegneranno sia a Roma che a Bruxelles. Mi scusi Salvini, anche Putin non è che giochi proprio alla pace, ad essere sinceri. Ma non penso che il problema del mondo sia Putin, penso che siano i tagliagoli islamici in questo momento, e penso che le sanzioni economiche contro la Russia, oltre a costarci 200.000 posti di lavoro come sistema Italia, che già mi sembra sufficiente, non risolvano i problemi. Schierare le truppe NATO ai confini con la Russia mi sembra una scelta criminale, guerra fondaria. Senta, iniziativa comune diceva, quindi Berlusconi va in Russia a parlare con Putin, così abbiamo letto, e fate fronte comune da questo lato. Sì, e il dramma è che a parole lo farebbe anche Renzi, e poi nei fatti però cala le braghe, ubbidisce, fa il compitino proposto da altri. Ripeto, con la Russia bisogna dialogare, bisogna ragionare, bisogna commerciare e bisogna parlare di pace, non di guerra. E su questo mi sembra di capire, voi siete diventati una sorta di interlocutore privilegiato, per così dire, dei russi, abbiamo letto. Ma non solo, io in programma un viaggio negli Stati Uniti piuttosto che altre due missioni sia commerciali che politiche in Nigeria e in Marocco. A me interessa che l'Italia riparta e che si possa permettere alla gente di non scappare dal suo paese, quindi non sono nato tifoso di Putin, semplicemente mi sembra idiota il sistema delle sanzioni. Grazie Salvini, buona giornata. Grazie, buon lavoro. E noi adesso ci andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi, come ogni mercoledì, la nostra rubrica dedicata all'autotrasporto, oggi tra l'altro dedicata all'incontro che c'è stato ieri tra il ministro Delrio e il mondo degli autotrasportatori. Poi ci sarà, come sempre, America 24 con Mario Platero. Ci ritroviamo tra poco.